si sa che è di zona latte dolce. E poi stamattina c'era anche Antonio, ma era in macchina sulla Budimir. Sì, sì, era con me al bar, ci siamo presi un caffè, eravamo al quadrato, perché ero con Tonino Kawasaki e poi è venuto Antonio anche, ci siamo bevuti un caffè, siamo stati lì a chiacchierare un pochettino. Antonio era in macchina, aveva la radio accesa. Quindi stasera così, piove, brutto tempo, stamattina ero in giro, sino, sono rientrato all'ora di pranzo, intorno all'una, dopo che ero con loro, poi sino a mezzogiorno, tra una chiacchiera e l'altra, sono andato alla Conad a farmi un po' di spesa, sono rientrato a casa che era l'1:20, poi ho pranzato e mi sono buttato sul divano e ho riposato. E stasera niente, tanto è brutto tempo ad uscire e non ne ho voglia, quindi me ne sto qua in panciolle, computer, con la radio e via dicendo, dai. Eh sì, il tempo non assiste, non è per niente bello. Ho fatto male ieri a non lasciarti il mio numero di cellulare, perché ero in giro anch'io stamattina, alle 9:30-10 ho fatto colazione dove eravamo ieri. E magari sapendo che eri in giro ti avrei avvicinato con la staffa che ce l'ho sempre nel cofano. Pronto, pronto, pronto, pronto, CQ, pronto, pronto. Zucchino! Pronto, pronto, CQ, pronto, pronto. Eia, pronti, pronti. Sì, Luca, già... anch'io ci ho pensato la stessa cosa, a Napoli ieri ero con Luca, gli potevo lasciare il mio cellulare, capito? E vabbè, dai già, se tu hai il WhatsApp di qualcuno, magari te lo fai, che magari ce l'ha il mio, se c'hai quello di Gianni, ce l'ha Antonello, il mio numero di telefono, ce l'hanno tante persone, ce l'ha Claudio, capito? Però darlo via radio non si sa mai, capito? L'unico numero che c'ho è quello di Antonello, al limite se entra lui lo dici tu a lui di mandarmi il numero, così lo autorizzi a divulgare. Yeah, certo, avanti, chi vuole entrare? Chi vuole entrare più forte? Fondoscala qua, Fondoscala Radio Super 5. Il più forte è la dolce Euchesina, perché siede a tutti. Il più forte l'accetto. Così ancora più forte. Ho detto il più forte l'accetto. Eia, a casa sei lui. Eia, adesso faccio un attimo. Non li sto più usando. Adesso sto usando il 3009, che era anche un po' di pieno di polvere. Mi sa che li compro il vestito dai cinesi, glielo metto sopra. E io dai, sono a casa, sto per uscire, devo andare alla muraglia a fare delle commissioni. Comunque ciao a tutti, non so chi ci sia, avanti. Ciao Luca, niente, mi facendo quattro chiacchiere, c'è l'altro Luca, quello di Viale Italia, dai, per intenderci. E niente, non c'è nessun altro, sei entrato tu a salutarci. Quando entri ci fa sempre piacere, non ti preoccupare se hai da fare, tranquillo, noi siamo a casa così facendo quattro chiacchiere. Avanti Luca. Ciao omonimo, ben sentito. Ah, ok, ciao anche a te Luca, salutoni. Sì, dai, lo metto in moto, adesso uno di questi giorni smonto questo, aggancio l'altro, quello digitale, quello se è fermo, poi c'ho il iPhone fermo, e ne ho parecchi fermi. Alla fine non c'è più nessuno, anzi, meno male che entrate voi ogni tanto, giusto così, se no non c'è mai nessuno. Bisogna fare qualcosa, così qualcuno entra e si fanno due chiacchiere, capito Carlo? Io è perché entravo sempre, poi diciamo per un annetto circa non sono più entrato perché non avevo più sistema antenna radio, capito? Poi mi sono deciso qua a rimetterlo, adesso sono solo e ho messo un'antenna sul balcone, una boomerang, e già sta andando benino, certo non è come averla sul tetto, poi se dovessi avere la possibilità di metterla sul tetto già ne metto anche una sul tetto, no, non è un problema. Però adesso è inverno e lascio tutto così. Tu qua mi stai arrivando proprio a bomba, Fondoscala, radio bella, bella, chiara, capito, roboante. Questa radio che stai usando adesso è perfetta. Allora, questo abbinamento con questa radio, ma questo abbinamento con questo microfono, ma cosa sto dicendo, questo, questo microfono abbinato a questa rete va benissimo, ma anche al iPhone, ma anche a quella digitale. Poi ne ho un altro MB4, ne ho due, quello è parcheggiato, però è più o meno come questo, dai, ma questo qua è più potente, però va molto meglio. E questa la domanda di Natalino, ma l'aveva venduto lui, uno scambio avevo fatto, se non ricordo. Sì, sì, vabbè, dai, la Mantova, ho sempre la Mantova 5 io come antenna, capo sempre il suo, quello famoso Bubis che c'è 20 anni. E per il momento, aspetta, vediamo. No, aspetta, vediamo così. Aspetta, ho sganciato un attimino. Allora, aspetta 2 secondi, scusate. Allora, 1 e 1. Sì, sì, sì, sì, con l'altro 9.40 il segnale, invece prima stavi arrivando proprio fondo scala a fondo scala, qua arrivi benissimo, va bene che già siamo vicino, anche Gianni doppio room lo sento forte, capito, non ci sono problemi, avanti Luca. Io come al solito sto guardandomi i siti, cercando il modo di spendere, che spendere è facile, però cercando occasioni. E io lo stesso, ogni tanto qualche spesuccia me la faccio, dai, qualche piccola soddisfazione, dai, a comprarti qualcosina ogni tanto ci vuole, se no sempre lavorando, facendo sacrifici, eccetera, e va a fanculo. E questi giorni sono in ferie e sono sempre in giro da una parte all'altra, capito? E vabbè, ci sta pure, dai. E solo che brutto tempo, andare fuori, no, non è che ne ho tanta voglia quest'anno. E le prossime ferie che mi prendo, magari me ne vado da qualche parte, capito? Magari all'estero, mi organizzo un viaggetto a Rasura, me ne vado a Cuba 5-6 giorni e poi me ne rientro. E niente, adesso brutto tempo, inverno, cosa vogliamo fare? E la radio fa piacere, dai, perché un po' ci passi la sera, 4 chiacchiere con uno, con l'altro, e poi arriva l'ora di cena, ti guardi un film e hai completato l'opera della giornata. Vabbè, dai, io malincuore vi saluto che c'ho appuntamento. Già sono in ritardo, tra 4:30 devo scendere giù a dalle parti basse, dai, c'è una latte dolce, poi dai, andiamo a fare queste commissioni e poi devo risalire, devo andare al monte, casa di amici, per così averci un caffè, qualcosa. Se ci siete più tardi, tanto non faccio tardi, perché domani si lavora, anche se va bene, domani entro alle 9:30 al lavoro comunque. Niente, se ci siete più tardi, se no alla prossima. Ok, riprendi tu Carlo, ciao, ciao anche a Luca, ciao. Yeah, ciao Luca, non preoccuparti. Sì, noi più o meno quasi tutte le sere, dalle 18 sino alle 20 a volte ci siamo in radio, poi durante la giornata qualcuno di noi ogni tanto entra. Dai, qualcuno già c'è ancora e quindi niente, l'altro giorno è entrato Manuele, Gianni Rubrofetta, insomma, ogni tanto si affaccia qualcuno e quindi vuol dire che le radio ancora ci sono, è bene che si usino. Buon tutto, dai Luca, ce la risentiamo, riprendi tu Luca, Viale Italia. Io sono Luca, stazione floppy, come i vecchi floppy disk. Sì Luca, buon giro, nonostante stia piovendo, ci sia freddo, ma un caffè ci sta sempre bene con gli amici. E niente di che. Carlo, raccontami qualcosa. Sì, adesso già me lo ricorderò, il tuo nominativo di radio, floppy, i vecchi floppy disk, sì, sì, sì, perché sennò poi, vabbè, c'è l'altro Luca, è vero. Niente, già sta entrando qualcuno in radio, dai, già, non è... Chi ha la passione la tiene, può abbandonare, ma poi anche se passano tanti anni, prima o poi riprendi, capito? E non c'è niente da fare, un po' per chiacchiera, un po' per passatempo, un po' perché poi magari ti fa incontrare qualche vecchio amico, ti fai 4 chiacchiere, capito? Già va bene la radio, riprendi tu. Sì, è un bel passatempo, cioè alla fine... alla fine invece di stare incollato al televisore che rincoglionisce o stare attaccato al cellulare che è peggio pure, uno si fa due chiacchiere, due cavolate, due risate, due commenti, ogni tanto un argomento serio, ogni tanto un argomento frivolo e ci passa il tempo. Io niente, poi sono andato anche giù in garage e ho recuperato l'altro alimentatore, ne ho due uguali. Sono alimentatori della Sa Delta, alimentatore switching, questo fa 13,8 volt, 30 ampere costanti, 32 ampere di picco, capito? C'ha la ventolina bella e quando riscalda si attiva ed è bello potente. Questo qua ci posso collegare anche tre radio insieme, capito? Ma io ho preso un alimentatore, anzi ne ho preso due, uno da 30 ampere e uno da 50 ampere, presi da Amazon, sono quelli switching con la ventolina stesso, e li ho pagati l'uno meno di 30 euro per entrambi, uno da 30 ampere e uno da 50. Sì, a voglia se vanno bene. Da 50 ampere regge, insomma, un carro armato, dai, già a voglia che ce n'è. No, io prima stavo usando l'altro, poi adesso ho portato su questo e ci voglio collegare qualcos'altro ed è più prestante questo alimentatore qua, e praticamente usato pochissimo anche questo, sono tutti e due nuovi, in buono stato, capito, li avevo comprati diversi anni fa. Questo ce l'avevo da più tempo, l'altro più piccolo l'avevo preso, trovato in offerta, e me ne ero innamorato perché era più piccolino, praticamente il fratello più piccolo, uguale, identico colore, identiche scritte, capito? Solo che quello è 10 ampere, 12 di picco, capito? E quello va bene per una radio sola, capito? E magari se ci vuoi attaccare anche qualcosina già regge, capito? Questo invece è più grandicello, ma io non sto attaccando niente, il watt che mi dà la radio e basta. Io faccio l'unico residuo di tutta l'attrezzatura che avevo 30 anni fa, è un alimentatore della ZG da 5 ampere, che pesa praticamente quanto gli altri tre alimentatori che ho, perché quello ZG è a trasformatore di vecchia concezione ed è pesante, ma sono solo 5 ampere. Poi ne ho uno con ventolina e tutto che si attacca solo quando scalda da 10 ampere e col display elettronico dove ti dà i volt, gli ampere, c'è anche la presa USB. E poi ne ho preso due, appunto quelli che ti dicevo, da 30 alla 50, che sono da rack, non hanno nessun tipo di indicatore se non un LED verde che ti dice quando è acceso e quando è spento. Quando arrivano sono tarati a 12 volt esatti, ma poi hanno la vitina di regolazione, un trimmer di regolazione, per cui li alimenti e poi con un tester vai sull'uscita e ti porti il volt a 13,5, 13,8, quello che vuoi, insomma. Sono comodissimi quelli lì. Gli altri due, uno è storico, l'altro l'ho preso ed è un po' più nuovo, ma gli ultimi due arrivati, quello a 50 è una potenza. Sì, li conosco, ne ho avuto uno di quelli, era se non sbaglio era da 50 ampere, l'avevo regalato ad Antonio, ma più di un anno fa, perché non lo stavo utilizzando, l'avevo preso dai cinesi, ma pagato tipo 18 euro, capito, l'avevo trovato, l'avevo comprato perché ho detto, cavolo, 50 ampere questo qua, chissà se funziona, anche io avevo collegato il tester, è fisso a 12, e l'avevo con la vitina portato a 13,8 e funzionava bene, perfetto, come hai detto tu aveva solo una lucina verde, capito, e poi aveva i vari collegamenti dove potevi attaccarti, molto semplice eccetera, però funzionano bene, capito, e in effetti anche se non sono molto esteticamente molto belli, però l'importante è che funzionino. Questo Sadelta che c'hai tu, che sigla c'ha? Sì, hanno un box chiaro, tipo color crema chiaro, capito? Questo si chiama SPS 3032 Sa Delta, e non lo so se lo fanno ancora, perché io ce l'ho da un bel po' di anni, ed è 30 ampere, capito? Se lo cerchi lo trovi. E poi ci sono, ovviamente c'è quello da 10, c'è, non so se ce ne sono anche altri. Tempo fa li vendevano ancora, poi io adesso non li ho più cercati, capito, non so se ci siano più. Sì, lo sto guardando in internet, bianco col tasto verde sulla destra. Sì, quando è spento è verde, capito, invece quando lo accendi si illumina, c'è un LED che lo fa illuminare, esatto, è proprio quello lì, io ce l'ho così, comodo perché praticamente sopra c'ha una griglietta dove tira fuori l'aria calda, c'è la ventola dietro anche, quindi pesca aria fresca e la butta su da, e funziona bene, e la ventola non è che entra in funzione sempre, quindi è anche abbastanza silenzioso. Sì, oggi non dà proprio cuore a uscire, troppo freddo. Io mi c'ho la finestra proprio vicino a me, quindi sposto la tenda che ho in camera e vedo che sta piovendo, perché vedo le gocce sulla ringhiera, capito? Sul poggiolino, e sta piovendo parecchio, ha iniziato dall'ora di pranzo, anzi veramente da stamattina quando ero con Antonio intorno alle 11 così è iniziato a piovere parecchio e poi non ha smesso più. E mio fratello ha avuto il coraggio di andare anche alla Torres, iniziava a mezzogiorno e mezza oggi. E mi sa che ha perso la Torres, perché stavo guardando il risultato e stava perdendo, mancava poco a finire, era 2-0, stava giocando con la Juventus New Generation, però ha perso. E ne ha preso 3 in totale. E io ho guardato il risultato, mancava poco, ho detto, quindi evidentemente poi ha preso anche il terzo. Diciamo la Torres quest'anno non sta facendo benissimo, è già tanto se rimane in questa categoria, spero che ci riesca, dai. Speriamo, ma ci vogliono soldi, Sassari non è città che c'ha soldi. Esatto, per avere una buona squadra ci vogliono quattrini, comprare giocatori, avere un vivaio, insomma, che ti crea anche giovani che puoi scambiare, invece le società qua sono povere, in Sardegna poca gente ci viene ad investire nelle squadre, anzi il Cagliari quest'anno sta andando discretamente, capito, e se continua così il Cagliari arriva a salvarsi bene, perché ultimamente ha fatto un sacco di ottimi risultati, ha battuto la Juventus, capito, sta facendo punti a nastro, adesso oggi gioca il Cagliari mi sa, stasera non vorrei sbagliare ma gioca alle 18. Non ne ho idea di quello. Sì, stasera ci sono un po' di partite, capito, c'è anche la Juventus che non mi dispiace, Juventus Lazio, la Juventus gioca con la Lazio, e poi ieri ne hanno giocato diverse di squadre, però così io seguo e non seguo, capito, io ci sto, quando non c'è niente allora mi guardo le partite, la partita, io seguo la Juve e basta, e poi così mi guardo qualche programma sportivo, ma per vedere gli aggiornamenti della classifica delle altre squadre, dopodiché basta, poi mi dedico a altro, capito, non è che ci perdo più di tanto tempo. Gioca anche la Dinamo stasera, ma per quella l'abbonamento non ce l'ho per vederla da casa. Sulla Torres sì, perché avevo fatto il contratto con Nau, perché si poteva vedere sia la Torres che la Dinamo. Poi la Lega Basket ha fatto contratto con ha fatto una specie di TV web sua, sempre a pagamento, e pazienza, non posso stare attaccato a tutti. E purtroppo per vedere il calcio ti tocca avere un sacco di abbonamenti, perché la Champions la dà un po' DAZN, un po' Sky e addirittura Prime Video, quindi devi avere 3 abbonamenti, perché secondo che partita è c'ha l'esclusiva Prime Video, quindi tu devi essere iscritto a Prime Video, a Amazon Prime, no? Di conseguenza hai quello gratuito e quindi la puoi vedere, e le altre non la trasmettono. Poi se invece la trasmette DAZN, allora dovresti avere l'abbonamento su DAZN. Il calcio l'hanno tutto frazionato, invece in partenza tu facevi abbonamento calcio e vedevi Serie A, le coppe, tutto quanto, le squadre, diciamo, di categoria minore. Poi hanno iniziato a dare la Serie A, se la sono ripartita in 3 emittenti, capito? Sky, DAZN, poi c'è Now TV, ce ne sono un sacco. La Champions idem, c'è la Sky, c'è la DAZN e c'è la Prime Video, capito? Tutto frazionato, quindi uno dovrebbe avere 3 o 4 abbonamenti per vedere tutto, e non va bene così. No, ma va bene, infatti, ma stanno esagerando, cioè qualunque cosa ci siano soldi su soldi, e anche basta. Io sto decidendo di togliere anche l'abbonamento a Now, tanto lo uso solo per la Torres e alla fine non ne vale neanche più la pena. Pazienza se non lo vedo da casa, il giorno che ho voglia di vedere la partita vado su all'acquedotto, quella in trasferta. Pazienza, ma non vale la pena tenere l'abbonamento. Sì, no, io lo stesso, io prima avevo l'abbonamento a Sky, capito? E lì mi vedevo qualche film su Sky Cinema oppure qualche serie TV, oltre il calcio c'era qualcosina di interessante, però poi alla fine ho detto troppi soldi stanno sempre aumentando, e ti paghi la fibra per il wifi, ti paghi l'abbonamento alla TV eccetera, poi c'è l'abbonamento sulla bolletta della luce perché c'è il canone Rai, insomma, e alla fine uno dice ma qua sto pagando un sacco di soldi, quindi inizi a tagliare e ti rendi conto che poi ci risparmi un sacco di quattrini ogni mese. Sì, adesso devo capire come si fa la disdetta, così mi risparmio anche quei soldi tutti i mesi. Devo capire solamente come, se hanno necessità di una raccomandata o se si può fare online, ma visto che il contratto l'ho fatto online, penso si possa dare anche la disdetta. È che di solito le disdette le fanno difficili per cercare di prendere tempo. Sì, molto probabilmente si può fare anche online. Io con Sky l'avevo fatta online, e se tu cerchi disdetta Now TV anche su Google ti porta al link poi dove dare la disdetta, o magari ci saranno da rispettare i tempi, capito? Devi avvisare almeno 60 giorni prima, capito, dal termine del contratto. Penso che si possa fare anche online, e poi in automatico quando il contratto ti scade e non viene più rinnovato ti dovranno dare il riscontro dell'avvenuta richiesta di disdetta, capito? Dopodiché te la conservi quella lì e poi tu ti guardi in autobus in che avevi pagato il contratto, poi non si rinnova più e fine della storia. Sto leggendo come fare. Seleziona l'offerta, clicca su gestisci pass per disattivare il rinnovo automatico. La procedura va completata mantenendo la scheda per revisione suddetta, è gratuita online. Questo video ti mostra come disattivare. Ora mi guardo anche il video. Sì, già trovi tutto. Io lo stesso quando dovevo fare disdette guardavo un attimo a dire così e seguivo pari passo quello che ti diceva, insomma, il tutorial oppure le informazioni su Google, e le ho sempre fatte così. Leggi pure tranquillo, Luca, già sono qua io al computer, anch'io sto guardando un po' di notizie. Allora, ieri hanno giocato diverse squadre, mi sa. Ieri hanno giocato, qual è? Allora, il campionato Milan-Pisa, no, eccolo qua, Verona. Giornata 24esima. Questa, no? Ecco, Fiorentina-Torino, hanno fatto 2-2, poi il Parma addirittura ha vinto a Bologna, col Bologna 1-0, poi Lecce. invece ha vinto con l'Udinese 2-1. E adesso alle 18 c'è Sassuolo-Inter alle 18, e invece la Juventus è alle 20.45 stasera, e poi domani c'è Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari è domani, capito? Non è oggi, è domani Roma-Cagliari di lunedì alle 20.45. Io lo stavo facendo col cellulare, ma me ne escono gli occhi. Dammi 2 secondi e vado a prendermi il tablet, almeno le scritte sono più grandi. Io mi sono preso un computer nuovo diversi mesi fa e mi ho preso il monitor da 27, è enorme, mi prende quasi metà scrivania perché è bello grande. Ho preso un computer di quelli only one, capito? E c'ha tutto nello schermo, la tastiera la puoi staccare senza filo, è wireless, così il mouse. Ho eliminato tutti i fili e ho la scrivania pulita col monitor, mouse e tastiera, non c'ho altro. La stampante me la sono messa dentro dove ho la cabinetta armadio, capito? Quando devo stampare qualcosa attacco la spina, tanto è wifi, capito? E quindi stampo direttamente da là e mi ritiro le stampe qua a fianco alla mia camera da letto, e così non ce l'ho nei piedi. E poi da una parte qua c'ho la radio e l'alimentatore, però dovrò mettere un'altra radio e quindi l'alimentatore me lo sposto sopra, capito? E mi metto una radio da una parte e una dall'altra e il computer al centro. No, io c'ho il PC qua dove c'ho le radio con il doppio monitor, però è spento, non ho voglia di fare tutta l'avvio, il booster, quindi voglio, adesso ci tento di farlo dal tablet. Sì, io lo stesso, il cellulare diciamo già lo uso, se ho gli occhiali che sono calmo, seduto, magari sono in divano oppure seduto a tavola, allora lo guardo, però mi devo mettere gli occhiali. Ha già uno schermo grande, io ho un Samsung Note 5 e quindi ha un monitor abbastanza grande, e poi mi ho aumentato anche i caratteri, perché se lasci quelli originali sono troppo piccoli, e così qualche volta se devi dare uno sguardo a qualche messaggio eccetera e non hai gli occhiali appresso riesci a vederli, capito? Il bello del cellulare è che ti puoi cambiare la grandezza dei caratteri della scrittura, capito? Così è, perché a una certa età la vista è compromessa e quindi se non hai gli occhiali appresso non ci vedi una mazza. Sì, no, sul PC qua nella postazione c'ho un monitor da 27 e uno da 24 che lavorano come doppio schermo, però voglio riaccendere, adesso provo col tablet. Io mi sono qua lo stesso guardando, mi stavo guardando i risultati, adesso mi controllo l'email, avevo fatto un ordine, mi servivano una presa e una spina asciutto nera, perché mi voglio fare una di quelle prolunghe elastiche, capito, che arrivano sino a 3-4 metri, non le trovi più, non le vendono più, le vendono sono online, ne ho ordinato una e non mi è arrivata, quindi ho annullato l'ordine, mi hanno scritto che l'avevano terminata. Allora ho trovato vicino a casa di Antonello, lì c'è quel negozio di materiale elettrico, giù al sottopiano hanno tutto il materiale elettrico, sono sceso per cercare delle altre cose e ho visto questi fili, capito, quelli che si allungano, capito, con effetto molla, bello lungo, però non avevano la spina e la presa nera asciutto, non ce l'avevano, ce l'avevano bianca. Ho detto il cavo nero e non l'ho visto e non ne ho trovato da nessuna parte, capito? Da coso, da Tecnomat avevano solo la spina e non la presa nera. Allora ho detto tanto vale, me le compro online e mi arrivano domani, me le dovrebbero mandare, capito? Ecco qua, perché senza rendermene conto avevo sia lo sport attivo che anche i film, e quindi erano 29 più 9, 38 euro al mese, ma va a cagare. Allora, boga ho tutto giù. Già fatto la disdetta. Sì, sì. Tanto film non li ho più guardato, li guardo su Netflix. Non li ho mai guardato e non so perché erano attivi. Questo me lo dovrebbero spiegare loro. E lo sport, di fatto, guardavo solo la Torres, mi interessava solo per quello. Ma non vale neanche più la pena tenerlo per la Torres. No, magari la Torres, ogni tanto magari se è una bella giornata, eccetera, proprio se ti va di vederla, conviene andare allo stadio e non ti paghi l'abbonamento. Capito? Sembra così, 40 euro quasi al mese, te li risparmi, Luca, e non sono da buttare via. Buonasera. E buona semene. Stai trovando quella radio? Sì. Con il caffè di tavola. La Torres ha perso 3-0 in casa oggi, quindi andare. Ciao Luca, buonasera. Come mi stai accoppiando? Di lusso, voce prepotente è presente. Bene meta. Dimmi, facendo quattro chiacchiere con Luca, tanto è brutto tempo, l'hai visto, da stamattina si è iniziata a piovere e sta sempre piovendo, poco poco sempre a nenne, va bene, già ci vuole anche l'acqua, periodo suo. Periodo suo, ma ha già rotto le balle, quindi bisogna che un po' finisca quest'acqua. Va bene, ok. Mi ho portato su l'alimentatore, quello più grande, ed è praticamente 30 ampere costanti, 32 di picco ne può dare, quindi già dovrebbe andare bene, è vero Fla? Sì, vabbè, io la grande, anche 25 ampere, vabbè. Non ci sono problemi. Bene. Avanti Luca, stamattina hai fatto andandotene tu e arrivando io. Io sono uscito da lì e sono entrato alla CRAI che dovevo comprare due cosette, quindi già ero in zona. E che non abbiamo pensato a scambiarci i numeri, perché magari capita che qualche caffè al volo ce lo possiamo prendere. Ripeto, io i sabati e le domeniche al 99% vado. Abbiamo fatto male a non scambiarci il numero l'altro giorno. E niente di che. Fammi sapere Claudio se trovi qualcosa di appetibile riguardo il discorso del sabato. Sì. Se sento qualcosa te lo dico, non c'è problema. Avviso al nostro amico in comune, capito? Non c'è problema Luca, va bene, infatti non ci abbiamo scambiato i numeri, perché vedi capita magari sei lì e ti posso aspettare per un caffè, no, anch'io vado tutti i fine settimana, gli altri giorni no, perché è un casino, poi passi il parcheggio e vabbè. Però fine settimana già ci vado, quindi per prendere un caffè non ci vuole assolutamente niente, va bene. E quindi Carlo, non ti differenza dalla mia modulazione attuale a questa, no? Diciamo questa è roboante proprio, capito? Si sente bella, capito? Va bene, tu hai la voce anche bella robusta, capito? Ma è diversa dal solito, dalla radio che usavi solitamente, il microfono soprattutto. Vabbè, tieni conto che questo è MC60, però con questa radio quando stai usando l'MC60 stai andando al massimo della modulazione. Si usi il microfono normale è un'altra cosa, ma anche il microfono normale con questa radio, processore inserito, spingono abbastanza. Va bene. Avanti Luca. Hai Santiago 9, quando usi la tua di radio o l'altra arrivavi più potente, ora è 9 fisso. E uguali sono, non è che la potenza, sempre quella la potenza, assolutamente. Io tengo sempre a 20 watt, 30 watt, con picchi di 50, quindi anche questa stava così, perlomeno, e la T250, ecco qua. sempre piovendo, sempre piovendo. Vai Carlo. E diciamo che l'umidità che penetra negli appartamenti, insomma nelle case, abbassa un pochettino la temperatura quando piove. La cosa antipatica è quella. Io qua, grazie a Dio, già sto bene. Adesso l'impianto mi parte dalle 5:30 sino alle 21. Scalda tutto e poi si spegne. Io posso stare sino a mezzanotte e quando mi alzo la mattina c'è ancora tepore, capito? Lo sto accendendo poche ore al giorno, anzi perché in questi giorni sono a casa, se no a volte non lo accendo. Io la mattina sono sempre in giro, se di sera c'ho il turno di lavoro rientro tardi, rientro alle 9:30 di notte, alle 10, a volte ho già cenato, quindi sto un po' così col cellulare, mi guardo qualcosina alla TV e poi me ne vado a letto e non accendo niente. Ci sono, per esempio, il mese di gennaio mi sa ho acceso un paio di volte. Adesso a febbraio lo sto accendendo di più perché sono in ferie dal 1° di febbraio e quindi sembra così, a casa ci stai un po' di più e ti fa piacere trovarla riscaldata un pochettino e allora si attacca, mai si veda la bolletta quando arriva qualcosina in più, del resto il riscaldamento bisogna pagarlo se uno vuole il calduccio, ma come appartamento questo è abbastanza caldo, isolato bene. Ma qua lo sono io già, sai, allora, e poi è molto molto fredda perché sei già in mezzo tra Osio e Sassari, quindi è abbastanza fredda. No, vabbè, comunque vediamo un po' perché le buchi, verrà l'estate. Ok, allora ti cambia lontano 2 minuti, arrivo subito. Bene, Cla, non ti preoccupare, già siamo qua. È da ieri che non funzionano invece i termosifoni condominiali qua, il riscaldamento condominiale, non si avvia la caldaia. Purtroppo è capitato tra sabato e domenica, perché quando capita uno squillo al capocondomino e l'indomani mattina viene il tecnico e vede cosa è successo. E invece quando è capitato ieri di sabato e non puoi cercare nessuno, per cui anche stasera siamo senza riscaldamento. Quando è così, capito, è una bella rottura. Io però ho una stufetta d'emergenza che è una figata, ma bellina, l'ho presa da internet, capito, mi è arrivata in un paio di giorni ed è una bomba. E molte volte, come ti ripeto, se arrivo, esco alle 10 di sera col turno di lavoro, tra arrivare a casa e tutto sono le 10:30, però non hai sonno perché sei ancora sveglio, hai guidato eccetera, ti mangi qualcosina e io me ne sto fuori nel soggiorno cucina che c'ho, capito, chiudo la porta, attacco quella stufetta, c'ha il telecomando, capito, in 10 minuti mi scalda tutta la stanza, poi si spegne, capito, metti in modalità eco, quando raggiunge la temperatura di 22 gradi lei si spegne e si riaccende appena passa di 1 grado, si riaccende subito. Però se ti metti anche a una certa distanza ti arriva proprio il caldo in faccia, proprio ti dà proprio la sensazione proprio appagante di caldo, io la metto davanti al divano, a volte me l'accendo e poi c'ho il telecomando, quando voglio la spengo. Avevo pagato una 50 euro, capito? Io in soggiorno ho la pompa di calore e in camera da letto lo stesso, per cui adesso stanotte me la accendo per un po' per scaldare la stanza e va bene così. Invece nella seconda camera dove c'ho la scrivania e tutta questa attrezzatura, qua pompa di calore non ce n'è ed è bella fredda. Allora adesso mi sono messo sai quelle ventole, il caldo bagno, attacchi quella, fa aria calda e la scalda in un attimo. Sì, già le conosco. La mia è quelle che sono fatte in ceramica e diciamo è a basso consumo, è una classe energetica abbastanza alta, capito? E comunque piccola ma lunga e alta, c'ha il piedistallo e può anche ruotare, capito? Col telecomando se vuoi gli fai fare l'oscillazione, ma io la lascio fissa, capito? Mi arriva il caldo in faccia addirittura. e quindi va benissimo. E quella è facile, leggera, te la porti in qualsiasi stanza, capito? Se sono da un'altra parte, sono in camera da letto e c'ho freddo, siccome non ho acceso il riscaldamento, mi metto quella lì e ho fatto bingo, capito? Poi anche io nel soggiorno ho la pompa di calore, ma non l'accendo d'estate, l'accendo quando fa caldo e a freddo, capito? Però la trovo poco comoda, capito? Ti brucia troppo l'ossigeno, secondo me, quel cazzo di... Poi mi viene addosso l'aria calda e non la sopporto. Il fresco è un'altra cosa, ma l'aria calda è micidiale quando ti arriva, mi leva il respiro quasi quasi. E qua, essendo all'ultimo piano, con l'astrico solare sopra, c'è fresco e la pompa di calore aiuta molto. Certo, quando funzionano i termosifoni, che non ci sono questi tipi di problemi, posso stare anche tutto l'inverno senza accendere la pompa di calore. In estate è un altro conto, in estate sempre per colpa dell'astrico solare c'è caldo, ma caldo caldo davvero, e senza le pompe di calore qua luglio-agosto ci sarebbe da schiattare. O scappo alla barca per dormire, perché in barca c'è fresco la notte, la verità, ti tiri su il trapuntino, perché la mattina soprattutto dalle 4 alle 5 c'è freddo, cioè non ci puoi stare senza coprirti. Ma qua a casa a Sassari ci sono, se tiri l'uovo contro il muro rimane appiccicato, cotto, se diventa bianco. Lo immagino, quando sei agli ultimi piani è così, lo so, perché nella casa di Bonorva, quando ci andavo, c'era la cameretta su all'ultimo piano, dove lì avevo la radio, capito? Avevo tutta la strumentazione, eccetera. D'estate però no, ci cuoceva l'uovo, capito? Vicino c'era il terrazzo, mi ricordo, uscivi nel terrazzo e c'era il pavimento arroventato dal sole, a piedi scalzi, capito? Ti bruciava perché era fatto in marmittone, capito? Ma una cosa impressionante il caldo che c'era, per sentire fresco dovevi bagnare il pavimento, capito? Ma bagnarlo è però consumare un sacco di acqua. E io dovrò pensare di mettere quei pannelli coibentanti, quelli di puri qualcosa, non lo so come si chiama tecnicamente, che fanno almeno da 5 centimetri. Solo che riempire i 110 metri quadri con quelli, che poi vanno anche sopra, ci vuole di nuovo la guaina bituminosa, alla fine è una spesa molto pesante, però è necessaria, bisogna che mi metta il cuore in pace, e questa primavera vi ha mandato per farmelo fare. Se capito, trovi un muratore bravo che ti sa fare il lavoro e lo può fare in sicurezza, perché c'è lo spazio e si può fare, capito, non dovrebbe costarti tanto, anche perché tutto materiale leggero anche da portare su all'ultimo piano, capito? E poi sì, se ti fai la coibentazione e poi ti metti la guaina isolante sopra, fai bingo, perché comunque ti salvi un po' dal caldo e anche dal freddo, soprattutto d'inverno dovresti avere molto più caldo, soprattutto quando poi la stanza la riscaldi tiene di più, capito? C'è meno dispersione, la coibentazione serve proprio per quello. E nella casa dove abitavo prima con i miei, lì avevano coinventato tutta la facciata col 110 e hanno sostituito tutte le finestre. Quando si accendeva l'impianto di riscaldamento ce n'era da schiattare dal caldo, capito? Quindi dovevi mettere le finestre in modalità evasista, capito, per schiattare un pochettino, se no c'era troppo caldo. Infatti avevamo detto all'amministratore di abbassare i gradi, dice ma i gradi sono bassi, perché c'è la coinventazione adesso. Poi, essendo un terzo piano, lì avevi un altro piano sopra e uno sotto, quindi tutti e due riscaldati, quindi al terzo piano stavi da Dio, ma anche troppo caldo. Io stavo in magliettina dentro casa. E noi il 110 ce lo siamo persi, perché ci siamo affidati a un ingegnere che doveva fare tutto, ci pensava tutto lui, e presentava qua, presentava là, gli abbiamo dato mandato, e la realtà dei fatti è che invece sono scaduti i termini e non ha concluso nulla e siamo rimasti fregati, altrimenti avremmo fatto tutto quello gratuitamente. Eh sì, là in quella casa lì ancora è rimasta l'impalcatura, però lo sai, perché noi l'abbiamo acciuffato per un pelo, hanno cambiato col 110, hanno messo l'ascensore nuovo, i portoni blindati, le finestre e poi hanno fatto tutta la facciata. Il tetto l'hanno coinventato e poi non hanno fatto però i cordoli. Allora la ditta che aveva preso l'appalto, che era una ditta di fuori, capito, ha lasciato l'impalcatura, dice perché ormai il 110 non ce lo finanziano più, non ci danno niente, se lo devono fare loro, ormai i proprietari, io non sono più proprietario di quell'immobile, a spese loro, e siccome non si mettono d'accordo ancora c'è l'impalcatura del 110 da roba di 4 anni, capito, sono con l'impalcatura e non la levano, perché poi ripiazzarla per fare tutti i cordoli, tutti i cornicioni del tetto ti costa un sacco di soldi, capito? Invece siccome questa ditta ha detto tanto noi adesso in Sardegna non abbiamo più lavoro e quindi per noi non ci crea problemi, certo se ci dovesse capitare uno che vuole l'impalcatura la vendiamo lì, quindi loro nella vendita c'è lo smontaggio e tutto quanto, vengono se la smontano, quindi approfittatene che ve la stiamo lasciando e fatevi i lavori. Hanno trovato questa ditta di Osilo, che non mi ricordo come si chiama, e dice che ogni tanto manda due operai, fanno un pezzettino, poi non si vedono per un mese, poi ritornano, ne fanno un altro pezzettino. Ho detto speriamo che non gli portino via la cosa a miei figli, gli ho detto l'impalcatura, se no poi vi costa molto molto di più, capito? Purtroppo col 110 chi ha fatto in tempo è stato fortunato e lì abbiamo fatto il 90% dei lavori, ma quel 10% non ce l'hanno finito e quindi è tutto a costo nostro, a costo loro. Io ormai non sono più proprietario lì, mi sono comprato questo di appartamentino e qua non ho niente da fare perché è di recente costruzione, quindi è tutto nuovo. Noi invece abbiamo un serio problema con i terrazzini che stanno cadendo, in alcune parti si vede il ferro a vista e anche se l'intervento sui terrazzini è onere di ogni singolo proprietario del terrazzino, non dipende dal condominio, abbiamo detto in riunione condominiale che avremmo preso un geometra per fare un computo metrico per le pertinenze da pagare di ognuno per la sua parte, e far fare tutto a un'unica azienda che sarebbe intervenuta una volta con la scala aerea e non che ognuno si chiama la sua scala aerea, perché altrimenti si spenderebbe molto di più facendo lavori in 20 piuttosto che fare il lavoro complessivo e poi fare le ripartizioni. E stiamo aspettando che ci diano notizia. Sì, sì, sì, no, se è così fate bene. Ricordati Luca che va smantellata la pavimentazione, rifatto il massetto e soprattutto impermeabilizzato sotto, poi il massetto sopra, capito? E vedrai che infiltrazioni non ce ne saranno più. Se è fatto bene, se i terrazzi hanno anche una leggera pendenza per lo sgocciolamento, poi fatevi mettere gli sgocciolatoi sotto i marmi, capito? Quelli in rame, perché capito, fa sì lo sgocciolatoio che l'acqua non scorra più sulla parete in cemento, capito, ma proprio sgocciola lontano e quindi li tiene sempre belli asciutti e durano un sacco di tempo se sono fatti bene. Sì, dovranno fare un intervento pesante e fare tutto con le soluzioni più moderne. La verità è che il palazzo ha 50 anni perché è del 75, va per i 51 e lavori così ai terrazzi non sono stati mai fatti, per cui dopo 50 anni insomma ha anche diritto di protestare il terrazzo. Sì, esatto. Purtroppo la manutenzione è a carico dei proprietari per quanto riguarda i terrazzini che sono pertinenza dell'appartamento, capito? Niente, tutto sta a farvi fare un preventivo, bisogna vedere quanti metri misura un terrazzo, a dire io ho un terrazzo da fare di tot metri, quanto mi prendi? 3.000 euro, con 3.000 euro cosa mi fai? Smantelli, mi fai l'impermeabilizzazione, si insopra il battiscopa, eccetera, come va fatta, poi fai il massetto, il pavimento nuovo, finito, e lo sgocciolatoio. Se ti fanno quello, adesso io ho detto una cifra così, poi è in base a quanto sono grandi i terrazzi, dipende se ne hai uno, se ne hai due, capito? Magari per un piccolo ti fanno un prezzo, per quello più grande un altro, dipende tutto da quello. L'importante è fare sì il computo metrico, cioè un geometra ti dice che intervento va fatto, cosa bisogna smantellare, cosa bisogna costruire e come va ricostruito, e ti fa anche da direttore dei lavori, perché durante i lavori lui va e segue il processo di rifacimento dei terrazzini, che deve essere fatto a regola d'arte secondo poi il computo metrico, capito? E lì ci avete poco da sbagliare, se fate così è fatto bene e non vi fregano, vi fanno un buon lavoro. Vediamo un po', perché dal 1° gennaio è entrato la nuova gestione di condominio, perché il vecchio capocondomino, che era un dottore che abitava qua al quarto piano, che lo faceva per cortesia, è pensionato, lo faceva per cortesia, per diletto e soprattutto gratuitamente, però oramai è troppo anziano e ha voluto mollare giustamente. Ora dal 1° gennaio c'è la nuova gestione del condominio e quando abbiamo fatto la prima riunione abbiamo dato un po' le priorità a quelli che sono i lavori da dover fare, e la priorità più grande è proprio questa. Poi i lavori da fare ce ne sono tanti, perché in tutti questi anni il palazzo si è un po' trascurato, e allora se tante cose ancora funzionano, tipo il cancello elettrico quando dà problemi ci penso io, controllo, smonto, se si brucia qualche scheda vado, la compro, la sostituisco e quello me lo gestisco io. Tutte le lampadine del cortile, del giardino e della mia ala, perché sono due scale, la A e la B, quelle le lampadine condominiali le sostituisco io e sempre a conta gratis, ma vabbè, non sarà il costo di una lampadina ogni due mesi, però mi interesso io per tenere le cose un po' in piedi. Ora c'è la nuova gestione, vediamo un po' come si comportano. Intanto per prima cosa ci ha aumentato il condominio a tutti quanti. Eh sì, purtroppo quando si cambia gestione c'è quello, perché il nuovo amministratore ovviamente avrà detto le spese annuali l'anno scorso erano queste, io ci vado cauto e di conseguenza metto un po' di aumento, e così poi se spendete di meno vi verrà restituito poi se avete pagato in più, capito? Adesso, capito, io lo sto facevo tutto io, cambiavo i filtri del pescaggio dell'acqua dal pozzo, perché c'era il pozzo, rimettevo l'acqua nel sistema autoclave, c'era un polmone grande e si riempiva tutto d'acqua, quindi ogni tanto andava svuotata l'acqua e rimessa l'aria dentro, io col compressore bloccavo le autoclavi, bloccavo la pompa del pozzo, capito? Facevo tutte le manutenzioni io, lampadine come stai dicendo tu, mi chiamavano, signor Cao, ci abbiamo al quinto piano la lampadina, esatto, non spendevo i soldi io, ma io mi facevo fare le fatture, andavo da ElettroPiù, quello vicino via Vardar Passo, vicino ad Antonello, e lì prendevo 20 lampadine per esempio, tutto quello che mi serviva, c'era una plafoniera da cambiare, la prendevo lì e mi facevo fatturare tutto con la partita IVA del condominio, e poi io me la facevo scontare dalla quota condominiale, lo diceva l'amministratore, sì sì signor Cao, lei ci dà la fattura, e noi quando anziché incassare quello ci dà la fattura, glielo scontiamo, e facevo tutto io, capito? Non solo quello, ma anche preventivi. E una volta hanno deciso di cambiare il citofono bisognava chiamare il muratore, fare lo scavo, incassare una nuova scatola perché la pulsatiera del citofono era più grande, e quindi bisognava, e c'erano le mattonelle in facciata, Allora ho detto, non chiamate nessuno, mi interesso di tutto io. Gli ho fatto fare un preventivo da una ditta, eccetera, e loro ovviamente non facevano lo scavo, eccetera. Ho detto, lo faccio io. Ho preso la mola, ho fatto un taglio di precisione, ho tagliato le piastrelle, ho comprato la pulsantiera nuova del citofono, capito? Mi hanno dato anche la scatola da incassare, ho fatto un po' di malta pronta, l'ho incassata, l'ho messa a livello proprio del muro, l'ho fatta vedere agli elettricisti, mi hanno detto perfetta, dice, neanche il muratore così ce l'avrebbe fatta. E poi dice, con la cornicetta l'ha fatta talmente precisa che viene coperto tutto, non si vede niente. Gli facevo risparmiare l'anima dei quattrini al condominio, e infatti mi stanno ancora piangendola quando me ne sono andato. Perché gli altri condomini non capiscono che, ma io dico, quelli del terzo piano, c'hai la luce del tuo pianerottolo che non funziona, e mettiti una scaletta, mettiti una sedia, cambiati una lampadina e stai spendendo un euro. Quando invece non lo fai e chiami il capocondomino, quello manda l'elettricista, e l'elettricista solo per la chiamata ti prende 40 euro. E se per ogni fesseria chiami l'elettricista a colpi di 40 euro, poi li paghiamo, e non è che piovono dal cielo e ce li regalano, cioè alla fine li paghi. Se tutti ci avessero messo un po' di buona volontà, invece tutti fanno i signori, io invece mi do un attimino da fare, ma adesso con la nuova gestione del condominio mi hanno detto, già faceva comodo, però sa, se poi si prende la scossa, se poi succede qualcosa, non era autorizzato, meglio che non tocchi niente. E vabbè, e allora anche per la caldaia sarei sceso a controllare, ma siccome poi sembra che sia io il rompiballe, perché sono l'unico che chiama il capocondomino, lo avverto, faccio, gli spiego cosa può essere successo, gli altri non chiamano nessuno, si lamentano solo, però non chiamano loro, ma poi trovano a me nelle scale e dicono, ah sa, ha visto, non funziona quello, e ha chiamato il capocondomino, e no, non volevo disturbare, e invece sono io quello che disturba. Purtroppo è così. Esatto, io lo stesso, là ero un factotum, capito? Infatti si rivolgevano a me prima dell'amministratore, nessuno chiamava e io avevo il collegamento diretto con l'amministratore, capito? Infatti ancora lui quando mi vede, ce l'ho vicino a casa perché c'ha lo studio qua vicino, e spesso lo incontro e dice, signor Cao, se ne venga da noi a lavorare, molli l'aeroporto, ho detto, se volete davvero ci vengo, quanto mi date? E dice, la stessa paga non gliela diamo noi, però no, e magari c'è da lavorare di più. Ah, quello senz'altro, e tante scocciature di in più, non è cosa che fa per me, non ne ho più voglia, figurati. Qua la verità, ci sono un anno e non ho visto mai l'amministratore in questo condominio, l'ho visto una riunione che abbiamo fatto 6-7 mesi fa, capito? L'ho conosciuto in quell'occasione, io ho le coordinate bancarie, ogni due mesi faccio un bonifico e gli pago il condominio così, e le ricevute ce le ho in automatico perché faccio il bonifico, capito? Adesso quando chiuderà il bilancio di nuovo spero di rivederlo, perché vi voglio far presente che io sono solo come consumo d'acqua e mi sto pagando da un anno invece il consumo che era stimato per la famiglia che ci abitava prima, che erano in tre, marito, moglie e una bambina piccola. Io sono solo, quindi queste sono le letture che io ho fatto e lei dovrebbe farle, quindi adeguarmi la quota dell'acqua sul condominio, quindi dovrei andare a risparmiare almeno 10 euro al mese, capito? Beh certo, ma quantomeno se continui a pagare così alla fine andrei a credito e salterai qualche mensilità. Affari suoi sono, io gliel'avevo già accennato questa cosa, mi aveva detto verrò a fare le letture nuove così aggiorno tutto, invece non si è mai visto. Questo qua prende i soldi, si prende il compenso mensile o annuale, adesso non so qua come lo paghi, però io non l'ho mai visto, capito? Anche l'altro giorno, allora stanno facendo i nuovi contratti con Medea Italgas, perché da marzo-aprile si passerà al metano e quindi stanno adeguando i collegamenti. Giù dove abbiamo i contattori hanno messo delle valvole di sicurezza e poi ci hanno fatto il foro in alto, mentre invece prima con l'aria propanata, il gas con aria propanata, il buco andava in basso. Mi ha detto: quello in basso se vuole lo può anche chiudere, dice, è importante che sia aperto in alto. Quindi mi hanno messo la griglietta, mi hanno fatto tutto a spese loro e mi hanno detto che gli ugelli sia della cucina che della caldaia non vanno sostituiti, perché vanno bene sia